Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir. Stamattina, sfogliando i giornali, soprattutto uno in particolare, mi sono accorto siamo entrati nella settimana natalizia. Era una grande foto di un arresto eccellente che c'è stato nella giornata di ieri. La persona arrestata in mezzo a due carabinieri veniva portata ad essere interrogata, teneva le mani come fossero giunte e le mani erano pixelate, cioè c'era quel effetto pixel che fa vedere e non vedere, di solito si usa sulla faccia delle persone che non devono essere riconoscibili, di solito si usa quando ci sono dei minorenni rappresentati in delle foto. Beh, le mani pixelate mi hanno lasciato qualche perplessità. Primo, è giusto non far vedere, fa parte di uno dei doveri deontologici, probabilmente penso ci sia anche una norma che lo prescriva, le persone in stato d'arresto in maniera che la loro dignità sia particolarmente lesa, soprattutto in una fase ancora istruttoria. Ma mettere le mani pixellate, sarebbe stato meglio tagliare la foto, non farle vedere per niente le mani. Mettere le mani pixellate significa richiamare immediatamente l'attenzione. Perché quelle mani sono state offuscate, sono state nascoste, sono state rese irriconoscibili, ma in realtà è stata attirata l'attenzione su quelle mani? Perché è Natale, perché dobbiamo essere tutti buoni, perché bisogna evitare di fare del male alle persone. E quindi, come prima reazione a questo clima natalizio, io vi suggerisco di riflettere per tutta questa settimana. Venerdì, che è il giorno della vigilia, avrei potuto benissimo prendermi una giornata tranquilla, fare finire gli addobbi natalizi, mettere il brodo dei cappelletti sulla pentola, via dicendo, ma invece verrò a fare la diretta. Preferisco, perché quel giorno vorrò raccogliere quello che seminerò durante questa settimana. Qual è il tema? Il tema è stato suggerito da alcuni ascoltatori nel mio profilo di Facebook, e già vedo che lì con grande attenzione, con grande dovizia stanno lavorando tutti. Bisognerebbe fare una attenta lista delle proprie conoscenze, mettere in primo piano le persone che realmente hanno fatto qualcosa per noi, alle quali dobbiamo vera gratitudine, mettere al secondo posto in questa lista le persone con cui abbiamo veramente piacere di stare, nel mio caso possono essere i figli e la moglie, in altri casi la persona che amate o che ne so, un benefattore, una escort, chiunque abbiate in quel momento bisogno o voglia di avere vicino. Vi lascio soltanto una terza chance. La terza chance sono, metteteci quei 2, 3, 4, 5 amici, quelle persone che realmente, se ci pensate, vi si allarga il cuore, avete voglia, desiderio e nostalgia della loro presenza, e poi cancellate tutto il resto del mondo e faremo un felice Natale, il Natale della lista in cui si eliminano tutti gli orpelli, tutti i doveri, tutti gli obblighi natalizi. Esiste un luogo comune che tutti coloro che praticano il cattivismo come regola essenziale della loro esistenza, per dire: ah, che schifo Natale, il Natale fa schifo, che orrore. No, il Natale è molto bello, è divertente, non vedo l'ora di tirare fuori i pupazzini del presepe, di giocare con il muschio disseccato da millenni dentro quelle scatolette, di andare in giro a cercare qualche regalino per veder sorridere la mattina di Natale qualche ragazzo e via dicendo. Ma non voglio assolutamente avere a che fare con il resto del mondo, non voglio essere obbligato a fare auguri a nessuno, non voglio ricevere quegli sms con le stelline ridicoli, non voglio rientrare in quegli obblighi aziendali, professionali, che ti arrivano i biglietti dei capi, tu devi rispondere. No, voglio salutare soltanto i capi a cui voglio veramente bene. Non, che non c'è un obbligo di augurio quando c'è un contratto di lavoro con le persone, non c'è un obbligo di augurio quando c'è una necessità, una contiguità con persone in cui lavori accanto. Ci lavori accanto, benissimo, gli auguri felicità, non devi essere obbligato a condividere con loro la tua felicità. Bene, 800240024, l'impegno comincia questa mattina, la mattina della vigilia. Correggerò i vostri compiti, vedrò quanto siete stati bravi a fare un Natale felice, e per fare un Natale felice quante persone, in che maniera, come vi siete disarcionati, come vi siete sbullonati dagli obblighi natalizi. Cioè, qualcuno mi scrive: Dio mio, comincia la conta, chi mette la casa per il cenone natalizio? Pensate che orrore, invece chiudetevi dentro casa con 2, 3, 4 le poche persone che vi va di vedere. Questa mattina sono naturalmente minato nel fisico ancora più del solito, sto prendendo alcune bevande calde, alcune tisane per riuscire a arrivare fino alla fine di questa trasmissione. Guarda un po', eri così sicuro di te. Volevi partire alla conquista del mondo. Una volta mi hai dato dell'avaro, vero, se la memoria non mi inganna. Intanto oggi non sei che un fallito come tuo padre. Un miserabile impiegatuccio che viene qui strisciando ad elemosinare aiuto. Nessuna garanzia, niente azioni, niente proprietà, solo un miserabile versamento di $600 su una polizza di assicurazioni. Vali più da morto che da vivo. Potresti andare a chiedere i soldi a quella marmaglia che ti è stata sempre tanto a cuore e non ci vai. Sai perché? Naturalmente, questa mattina faremo una bella rassegna di come è stato raccontato il buono e il cattivo Natale, il Natale luminoso e il Natale oscuro, il Natale dei buoni e il Natale dei cattivi. Sì, perché al di là delle legittime e fantastiche convinzioni di chi ancora nel Natale appoggia un'idea di tipo trascendente, chi non pensa che sia soltanto l'occasione di scalbiarsi regalucci, di comprare luminari e di infilare mele cotte nella cloaca di un cappone, evidentemente Natale ha un profondo senso, per questi non occorre assolutamente dire nulla. Avranno le loro legittime e fantastiche ritualità natalizie, faranno le loro opere di misericordia, rifletteranno con la propria coscienza. Poi esiste una lunghissima sfumata di persone, di chi ha comunque una forma esteriore di mantenimento delle tradizioni religiose, chi nemmeno quello, chi semplicemente si preoccupa di giorni che dovrà riempire attraverso attività ludiche, come andare a vedere il nuovo film di Boldi e De Sica, come ingozzarsi fino a vomitare, come giocare a carte e cercare di spillare soldi ai propri amici, come andare in vacanza, come andare a sciare, come dividersi in equa maniera fra legittimi consorti amanti, insomma. Ma ci sono tanti problemi legati al Natale. Poi esiste l'aspetto oscuro di chi passa il Natale da cattivo. La vita è una cosa meravigliosa, è una delle prime maniere che attraverso il cinema, che è una tradizione tipica del Natale, una volta c'era il cartone animato di Natale, c'era il film buono di Natale, adesso c'è il cinepanettone. Quindi questa mattina con il grande Giuseppe Sansonna analizziamo il Natale visto dal cinema. La vita è una cosa meravigliosa, è un caposaldo del Natale. Sì, è il trionfo dell'umanesimo melassoso e un po' stucchevole di Frank Capra. E qui c'è James Stewart che incarna l'uomo medio, che poi fumettisticamente, disneyanamente diventerà Topolino, e è contrapposto al cattivo, al capitalista grifagno che si chiama Harry Potter, prevedendo poi il nome dell'orrido e stucchevole maghetto che poi seguirà negli anni a seguire. Questo è il tuo punto di vista. A me piace. Sì, un affettuoso punto di vista. No, poi sono pienamente nello spirito della tradizia, come te, del resto. Cioè, mi ricorda una battuta di Jack LaMotte, che ricordare il grande campione dei pesi medi, che raccontava che erano così poveri da piccoli che suo padre a Natale usciva di casa e sparava in aria, poi tornava e diceva che Babbo Natale si era suicidato, così si risparmiava i regali. Ma tornando alla vita meravigliosa, qui c'è la contrapposizione dell'uomo medio americano che ha una solarità, una bontà di fondo, crede nel bene e viene circuito, messo alle strette, messo alle corde da Scrooge, da questa figura che è Harry Potter, il cattivo del paese che sta per annettersi, il Montgomery Burns del paese che sta per annettersi il paese. Verrà condotto sull'orlo del suicidio e poi verrà salvato da questo orologiaio, da questo angelo di seconda classe che lo salverà, gli farà vedere se lui si fosse suicidato, se non fosse mai esistito, come sarebbe stata la vita del paese, molto peggiore, quindi la necessarietà di James Stewart. E insomma, la bellezza dei film di Capra è che il finale sembra proprio sempre un po' posticcio, il finale, il lieto fine, l'happy end, sembra un po' posticcio sempre, perché ti fa vedere fino in fondo l'abisso della società. Oddio, in assoluto, osservando la scarsa e pallida esperienza di vita che ognuno di noi ha, non è che il lieto fine sia una di quelle occasioni che capiti così frequentemente. Sì, e in Capra la bellezza dei film, che per il 98%... Però il morbo insanabile mi fa una bella voce, senti. Sì, sì, sembra Monica Vitti, c'è quella sensualità un po' rocca. Se permettimi, do una grattatina, però dai. No, ma... Quindi certo la stucchevolezza, i film di Capra però descrivono nel dettaglio le derive di questa società piena della crisi, in cui si può da un momento all'altro arricchirsi ma da un momento all'altro precipitare sulla strada, che è molto, una tematica molto forte dei film natalizi americani. Diciamo che il Natale è un'occasione fantastica, gli strozzini sotto Natale si fregano le mani, perché è l'occasione in cui si può fare del male veramente, profondamente, in cui è più lancinante il dolore di chi deve subire. Io ricordo che in una passata mia vita mi mi dovevo licenziare da una grande azienda, mi costrinsero a farlo il giorno della vigilia di Natale, così non puoi dirlo a nessuno, così sarai fuori dall'attenzione di tutti. Sì. È fantastico, perché Natale ci si sente come la piccola fiammiferaia che sta per morire ghiacciata sul marciapiede, e come la vittima del cattivo ricchissimo che non capisce lo spirito del Natale. È fantastica anche l'abiezione della vittima del Natale. È una sorta di redderazione manuale che ci invade di melassa, ci ottunde la mente, ci rende meno cinici di quello che siamo. Ecco, delle fantastiche ascoltatrici già si stanno muovendo sulla mia missione di abolire la parte superflua del Natale. Mary, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto volevo fare i complimenti per la trasmissione, la trovo molto interessante e trovo che lei dica delle cose molto sensate. Rischia la motosega dicendo queste cose, lo sa. Eh beh, mi prendo la responsabilità. Volevo dire che, come diceva prima, io del Natale, secondo me è una festa molto bella, è una festa che dà molto calore e tutto quello che vogliamo. La cosa che non sopporto è che gente che magari non si fa vedere da anni, che magari mi ha fatto, mi ha creato anche dei problemi, si fa sentire per farmi gli auguri di Natale. Al che io non rispondo, perché non trovo la ragione, perché uno per tutto l'anno se ne freghi di determinate cose e poi Natale tutti bravi, tutti buoni, tutti timorati di Dio. Perfetto Mary, allora dunque lei ha tutta questa settimana per farmi un attento elenco di tutte le maniere per evitare, per controbattere, per staffilare e ferire queste persone, perché non voglio anticipare l'argomento. Io la mattina della vigilia chiamerò tutti voi a raccolta, mi dovrete fare una relazione di come siete riusciti in maniera fantastica a punire e evitare questi aspetti irrituali del Natale. Il Natale è una bellissima festa, siamo d'accordo, ma viene inquinato da queste fetenti necessità. Lei studi e profondamente rifletta, la richiameremo la mattina del 24, mi dirà come, ma con prove alla mano, è riuscita ad evitare, o perlomeno evitare, queste persone mai più nei prossimi Natali si facciano vivi con lei. Patrizia. Oh, buongiorno, buone feste a tutti in anticipo. Pronto? La sto ascoltando, sono minato nel fisico, nella salute, quindi ho un po' di lentezza di reazione, però ci sono. No, siccome sono in auto ho dovuto spegnere la radio, non sentivo nulla. Dunque, io con i compiti di Natale ho smesso veramente da anni, e all'alba dei 50 mi permetto veramente di dire che faccio i doni col cuore. Primo è il compleanno di Gesù ex bambino e non il nostro, perciò fosse non il per mio tutti compleanno. Però questo bisogna dirlo, lo è per noi che siamo cristiani battezzati, per gli altri è un bel giorno di festa, non è assoluta, no, per ma tutti. Perché dobbiamo farci i regali fra di noi quando è il compleanno di Gesù? Perciò che non ha bisogno di regali perché già c'ha tutto. No, non ha bisogno lui, ma ha bisogno il parroco della nostra chiesa, piuttosto che qualcuno che abita più in là di casa nostra può aver bisogno. Io ho cominciato a fare i regali col cuore e la mia lista è proprio corta, 7 persone, 12, 5. Beh, sono tante, 12 cominciano a essere tantine. Beh, dipende, perché se l'anno scorso sono state 12, ma un simbolo, non il regalone, 12 perché ne ho voluti bene in quel momento, in quel periodo, a 12. Dunque le do un altro argomento per intervenire la mattina della vigilia, così mi farete compagnia, perché so soltanto io, penso Valerio Rocchetti, gli altri stanno tutti a ingozzarsi di panettone o preparare la pasta dei cappelletti. No, dico, si prepari, lei voglio che mi faccia la lista, perché esiste un'altra squalida usanza, quella del regalo riciclato. Noi tutti abbiamo delle cantine piene di orrende bomboniere, caccoliere ci hanno regalato in precedenti Natali, le riconfezioniamo, le rimpacchettiamo, le regaliamo, tanto per andare con un pacco in mano. Ci sono pacchi addirittura, sono soltanto pacchi, dentro non c'è niente, tanto per metterli sotto l'albero. Lei la richiamerò il 24, mi dirà esattamente questi 12 regali, come li ha articolati e come li ha messi in fila. Ebbene, tu vieni? Dove? Ma come dove? Al Polo Nord! Questo è il Polar Express! Al Polo Nord. Reggi, per favore. Grazie. Questo sei tu? Sì. Bene, qui dice niente foto con un Babbo Natale dei grandi magazzini, niente lettera. E hai fatto lasciare latte e biscotti per Babbo Natale a tua sorella. Mm-mm. Ho l'idea che questo sia il tuo anno decisivo. Se fossi in te, salirei senza indugio a bordo. Avanti, avanti, avanti. Ho un orario da rispettare qui. Oh. Questo è un film fantastico, Polar Express, un film che a casa mia ancora si vede, uscì nel 2004, dal 2004 fino siamo al 2010, ogni anno la tradizione di vedere Polar Express, perché fu un film fantastico, meraviglioso. La chiave di questo film è una, è dedicato a quelle persone povere di spirito che non credono a Babbo Natale. Pensare sembra impossibile, ci sono delle persone che ancora mettono in dubbio l'esistenza di Babbo Natale, che una volta cresciuti, una volta adulti... Uno scandalo. È uno scandalo, pensano di aver fatto questa scoperta in nome non sai quale abominio positivista e razionalista che non esista Babbo Natale. È relativismo in fondo contro cui si scaglia. È veramente un atto di relativismo, veramente bieco, abietto, nel momento in cui non ci sono valori, anche questo noi lo rimpugniamo. Ecco. Polar Express aveva una sua caratteristica molto pregnante, la fusione del 3D calata sul corpo di attori in carne e ossa, Tom Hanks che furoreggiava come mattatore, e soprattutto c'era questa bambina che era la sosia di Condoleezza Rice, come ricorderai, la bambina nera un po' saccentella, e questo treno che parte e arriva dritto come un fuso al Polo Nord a scoprire appunto l'esistenza di questo dogma che è Babbo Natale. È bello perché fa corrispondere l'inizio dell'età adulta, dell'età della saggezza, dell'età in cui deve prendersi responsabilità, con la fine della fede in Babbo Natale. Gli adulti non sentono il campanello e la slitta di Babbo Natale perché non ci credono più. E tutto nasce da un bambino attanagliato dal dubbio. Lui sin da piccolo ha questa sorta di terribile ondata di età adulta precoce. Dice: non credo a Babbo Natale. Non sentiva il campanello. Finalmente l'ultima sequenza lui sente il campanello della slitta. È importante però fare dei cenni storici da dove viene Babbo Natale. Dal vescovo di Mira, da San Nicola. Tu lo dici che sei pugliese. Sono pugliese perché ci sono mille altre teorie. I miei conterranei baresi andarono a rubare, noi quando lo studiavamo all'elementare ci dicevano trafugare, no? Però invece andarono proprio a rubare le ossa di San Nicola ai turchi e se le misero nella basilica. Perché è legato a Babbo Natale? Perché San Nicola mandava i suoi vescovi a portare regali ai bambini bisognosi in Turchia e così loro si convertivano al cristianesimo. Quindi da lì che è nato. Sì, infatti l'hanno spolpato i turchi. Sì, poi, i turchi, appunto, insomma. Morte, le ossa sono state portate poi nella Bari bizantina e poi il Babbo Natale che ci arriva oggi tutto addobbato di rosso, questo trippone con la barbona, è legato a un'idea di Archie Lee, che era il creativo della Coca-Cola, che nel 31 si inventò. Non vuol dire una bestialità, ma le ossa di San Nicola emanano ancora la manna di San Nicola. Sì, esatto. Trasudano un liquame la chiamano la manna di San Nicola. La manna di San Nicola, esattamente. E appunto il culto che c'è a Bari, che è diffuso in tutto il mondo, ma Santa Claus è appunto San Nicola. Vabbè, perché sei pugliese, te la lascio passare. Sì. Maria, buongiorno. Buongiorno. E io chiamo da Udine, complimenti per la trasmissione. Allora io volevo dire che ho trovato un metodo. Io attacco sulla porta di casa il primo dicembre una vecchia copertina di un venerdì di Repubblica che dice: aiuto, arriva Natale. Cominciamo bene. Poi sul cancello di casa a un certo punto attacco un altro biglietto molto grosso dove c'è scritto: vi ringrazio per gli auguri, per la visita, ripassate dopo la Befana. Sì, ma chi è che viene più a casa, giusto nei paesi? Perché oggi mandano sms, mandano email, telefono. Non rispondo, stacco telefono, stacco tutto. Sì, ma devo fare un Natale solitario e squallido allora. È squallidissimo, sì. Le piace il Natale squallido, da sola? Mi piace il Natale squallido. Come Scrooge. Ma io non lo trovo squallido, trovo molto più squallido il Natale degli altri. Ma lei è solissima così? Bisogna vedere da che punto di vista lo si vede. No, ma lei è sola, dico Maria, rimane sola la notte di Natale? No, io e mia figlia. Stacca anche Beh, siete in due, già vede, c'ho già. Siamo in due e ci bastiamo. E quindi passiamo. Vabbè, oltre alla maniglia ci sarà qualche altra possibile maniera per offrire dei doni natalizi. Datevi da fare perché vi chiamerò la mattina della vigilia, vorrei sapere anche come il Natale della madre e della figlia potrebbe avere una coloritura fantastica, perché è troppo semplice, chiudiamo dentro a chiave e tutti fuori. No, bisogna dare anche un'alternativa felice, se no è un Natale di semplicemente rinuncia. Il Natale non deve essere un giorno di rinuncia, deve essere un giorno di felicità. Felicità però non condizionata dall'invadenza degli altri. 800240024. Prossimo, cazzo, non è la motorizzazione questa. Muoviti allora. Come ti chiami? Non vuoi dirmelo? Ah, certo, vuoi dirlo a Babbo Natale? Se non glielo dici, non ti porta il regalo. Bravo, vieni a raccontare tutto a Babbo Natale. Che vuoi? Dai, dimmi che vuoi. Un asciugamoccio? Perfetto, un altro ragazzino mongoloide. Marcus, liberami da questo moccioso, sennò mi pisci addosso. Molla la barba. Non è vera. Non mi dire. Beh, era vera. Ma sono stato male, i peli sono caduti e li ho... Giuseppe Sansonna stiamo cominciando a entrare negli aspetti cattivi, lividi, del Natale dei cattivi, gli arrabbiati, non voglio dirlo, ma un po' come la signora, cioè tutti fuori, noi chiusi dentro, lei la figlia da sole, davanti allo scaldino, chiuse, con una candelina accesa, me l'immagino così, spero che abbiano un'alternativa. Come lo Scrooge del canto di Natale che verrà visitato appunto... E poi vengono i fantasmi di Natale, fa una paura inevitabile, bestiale. Inevitabile. E qui in questo caso di cosa stiamo parlando? Questo è Babbo Bastardo, film che celebra appunto il pieno spirito del natalizio, di Terry Zigoff, con un grandissimo Billy Bob Thornton che sembra Ben Gazzara, Charles Bukowski di Storie di ordinaria follia di Ferreri, cioè appunto un Babbo Natale da supermercato, alcolista, che appunto usa questo stratagemma, questo cavallo di Troia della divisa da Babbo di Natale per poter entrare negli ipermercati e rapinare tutto col suo nano che lo segue sempre. E però alla fine anche in lui lo spirito di Natale entrerà da una crepa del cuore, si legherà a questo ragazzino un po' ciccione, un po', e quindi anche in lui ci sarà la bontà, esploderà la bontà. C'è anche da dire che il Natale è una grande occasione di rapina. Il Natale c'è il proliferare di tutto lo storpiume indotto, non voglio prendermela con chi veramente, ma mendicanti che poi sono frutto, abbiamo parlato in una trasmissione qualche tempo fa, di un accurato marketing. Sotto casa mia ci sono almeno 4-5 cappottini che sono quella specie di costruzione di personaggio pietoso che vedo, li arrivano tutti perfettamente vestiti con giacca a vento. Poi si spogliano tutti, rimangono a piedi nudi, mettono soltanto un cappotto e passeggiano macilenti ai semafori per poi rivestirsi e riandarsene via tranquillamente. Ci sono ancora signore, poverine, che prese lo spirito natalizio, vanno nei negozi di articoli sportivi, comprano delle meravigliose scarpe da ginnastica o belle babbucce felpate, gliele portano e questi le guardano e dicono: ma che ci facciamo con le scarpe? Non sapremmo che fare, da parte ce le abbiamo, dobbiamo riportare soldi. Quindi diciamo, nel Natale esiste anche una sorta di sottile e malvagia arte di turlupinare il senso di bontà che aleggia tra le persone. Sì, aleggia come questo senso di bontà e oppiaceo, entra nelle nari delle folle, poi però si dissolve a gennaio, con i rigori di gennaio, col freddo si torna al consueto cinismo. Che poi arrabbiatissimi perché le feste sono finite. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, bentrovati. Devo dire, noi abbiamo ormai da diversi anni un rito che si consuma categoricamente ogni dopo festa, cioè dopo la Befana arriva questo evento che ormai è atteso da anno dopo anno, va crescendo, che facciamo una tombola del riciclo dei regali che non sono stati ben accettati. Ah, la tombola delle fetecchie, bellissimo. È un fiorire di tutto, perché secondo me diventa anche l'occasione per svuotare la cantina, la soffitta. Arriva veramente di tutto e siamo sbalorditi da quello che c'è. Ed è bellissimo perché chiaramente ogni anno c'è gente che mi dice: mi raccomando, noi partiamo, aspettate che torniamo prima di fare la tombola perché dobbiamo partecipare. Questa è già una grande idea. Se la tenga a parte, perché il 24 noi dovremmo dare dei suggerimenti pratici, dovremmo insegnare alle persone come da lì al giorno della Befana avere ogni giorno una fantastica idea per fuggire dai luoghi comuni. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Senta, io conosco abbastanza bene la sua situazione finanziaria e so benissimo che lei non può permettersi di giocare oltre quello che sta perdendo. Come non posso permetterlo? Perché? Senza nessuna garanzia. Lei a questo tavolo non può continuare a giocare. Come senza nessuna garanzia? Scusi, ma ho uno dei migliori cinema di Milano, loro lo sanno tutti. Lei conferma quanto il signore dice di possedere? È chiaro che confermo. Certo, sì. Lo confermo, poi lo sanno tutti. È nel cuore di Milano, no? Bene, allora mi scusi, possiamo continuare. Continuiamo. 2 milioni, 10 milioni. No. Beh. Carte. Servito. 50 milioni. Per 5. Dai, vieni via, Franco, vieni via. Ti vuoi fare giocare 250 milioni. Tutto quello che hai, capisci? Tutto il cinema, Franco. Lasciala in pace. Ma come lascialo in pace? Non vedi che ci sta pensando? Lasciala in pace e mettiti seduto. Per quanta gente le vacanze di Natale, soprattutto in certe province italiane che ben conosco, è la grande occasione per sgrassare gli amici. Con la scusa conviviale, ti invito, vieni a casa mia, giochiamo a carte, giochiamo a tombola, giochiamo a mercante in fiera. Ricordo che in una fanciullezza disperata tentammo il colpaccio, comprammo una roulette di plastica e andammo a casa di un ragazzo ricco, io e alcuni altri compagni morti di fame, compagni nel senso compagni di sventura. E in realtà con questa roulettina riuscimmo ai ricchi a portargli via un po' di soldi, eravamo bravissimi perché avevamo comprato il doppio delle fish. Teneva banco sempre il ragazzino ricco. Noi andavamo all'incasso con le fish finte che nessuno aveva comprato e non capiva perché gli finivano i soldi. Arrivò il padre. Il padre ricchissimo, grande, esperto, frequentatore di casinò. In 10 minuti ci portò via anche la roulette. Se non andavamo via dovevamo lasciargli anche i cappottini. Beh, questo fu un Natale che mi fece passare la voglia di giocare, ammesso che l'abbia mai avuta. E il film di Puppi Avati, in realtà Regalo di Natale, è un film fantastico, uno dei pochi che sono rimasti nella mia memoria di Puppi Avati, perché spiega perfettamente il meccanismo tipico della provincia italiana di mettersi d'accordo per fregare un amico. Non esiste legame di sangue di fronte al dio quattrino, di fronte alla necessità, alla voglia, alla disperazione. A chi è in mano agli strozzini non guarda in faccia nessuno. Quando uno ha bisogno di soldi non guarda in faccia nessuno. A te è piaciuto questo film, Giuseppe Sanzon? Moltissimo. Questo è il primo ruolo drammatico di Diego Pantantuono, che tra l'altro in quel periodo della sua vita versava in condizioni molto simili al personaggio che incarna, perché veniva da un successo strepitoso del Terruncello, eccezionale, veramente. Ma era ormai ai margini del cinema, perché quel personaggio era sfibrato, doveva assolutamente recuperare un ruolo drammatico. Avati intuì, fu molto abile a cannibalizzare condizioni antropologiche particolari dei suoi protagonisti. Delle Piane è esattamente così nella vita, ipocondriaco, mangia due patate l'essere. Nick 900, ricordi? Certo, lunare, morì giovanissimo. Comunque George Eastman in questo film, c'è George Eastman che veniva dai film di Gio D'Amato, sono tutti un po' di, tra virgolette, dei relitti umani quelli che si trovano intorno a questo tavolo. Ma spesso chi è a un tavolo da gioco lo è, diciamo la verità. Di fondo è quel cotè che emerge, la disperazione, l'amicizia, il tradimento, tutto ottuso, circonfuso da questa atmosfera natalizia che appunto rende tutto ancora più crudele il disveramento finale. Sentiamo l'ascoltatrice Marisa. Marisa, buongiorno. Ciao, sono Marisa. Ah, la sento molto allegra, Marisa. Sì, sì, sì, no, di solito per me è Natale tutti i giorni, quindi diciamo che sono ancora nell'età in cui... E la Befana quando arriva per lei? La Befana spero presto, perché quando ero piccolina i miei... Sarà accontentata, erano... le auguro. Ma sì, sì, ma sempre accontentata, sia Babbo Natale che la Befana. Sì, sì, devo dire, nella vita finora, cioè, sono per me è Natale tutti i giorni. Però volevo dire che mi mettono molto tristezza quelle famiglie che... rifiutano di stare con gli altri, cioè, perché potrebbe comunque uscirci qualcosa di buono in questo periodo. Ma molte magari sono in delle condizioni che non possono farne a meno. Sì, questo sì, però anche la signora che mette il bigliettino, passate dopo la Befana, cioè alla fine non bisogna chiudere la porta comunque. Lei vorrebbe tenere la sua porta sempre aperta a chi... Sì, sì. È disposta a fare, lei sarebbe disposta a fare anche dei gesti generosi, perché stare con la propria famiglia. Sì, ma tendenzialmente, cioè, adesso essendo comunque adulta, cioè, perché faccio appunto 31 anni a Natale, sono nella fase dove è meglio dare che ricevere, quindi sì. Guardi Marisa, siccome mi voglio per 5 minuti sentire buono anche io, resti in ascolto, le do una grande occasione questa mattina. Luciana, buongiorno. Buongiorno, auguri di buone feste. Sono vedova, ho 76 anni, ho dei bei ricordi del Natale, però volevo dire che quando eravamo bambini per noi la vigilia non esisteva. Lei come lo passa il Natale, Luciana? Io lo passo da sola, perché sono rimasta sola, non ho figlioli, e per noi il Natale era aspettare la mezzanotte con i nostri genitori, giocare un pochino a tombola e aspettare la mezzanotte per mettere il bambinello nel presepio. E adesso invece che lo metto quel bambinello nel presepio? Adesso non faccio il presepio, però vado a messa a mezzanotte, perché per me la festività del Natale è la messa di mezzanotte. Ma si fa qualcosa da mangiare di particolare? No, niente, no, no, niente. Una minestrina come tutti i giorni? Sì, come tutti i giorni. E il pesce lesso, olio, però limone. Una sogliolina surgelata, sì, beh, sì, perché certo. È più sbrigativa, sì. E accesa una lampadina a bassissimo voltaggio, e poi metto i miei angioletti che mi fanno allegria. Quello è l'unico suo Natale. Questo è il mio Natale. Resti sereno, tranquillo. Resti in ascolto, Luciana. Resti in ascolto, Luciana, non si muova, resti lì. Marisa, ha sentito questa signora? Sì, purtroppo la signora è rimasta da sola. È lei che ha detto che è disposta ad aprirsi alle altre persone. Perché non la invita a casa sua? Sì, ma la mia mamma l'ha fatto, cioè, no, ma adesso lo farebbe di chiamare la signora Luciana, sì, vedova, certo. con la sogliolina, sì, lessa. Allora, sì. Vi mettiamo in contatto. No, non ci preoccupi. Non ci vuole andare. Le dico, mi malinconirei di più. si mette a tristezza. La ringrazio, però ecco, per me il Natale è una cosa mia intima, personale, e la mezzanotte è quella. Vabbè, ognuno è libero, guardi, ognuno è libero di vivere la propria felicità come vuole. Io le davo una grande occasione a Marisa. Grazie, la ringrazio infinitamente, però volevo dirle, sono serena e contenta di aver avuto un periodo meraviglioso, dei Natali belli, e tutto sommato... Che non ci saranno più, come vuole lei? No, ci saranno forse ancora, per carità. Beh, si sta sempre chiusa lì con la sogliolina, scusi, nessuno la inviterà mai. Io le davo un'occasione, Marisa, che ha una casa piena di gente, scintillante. Ma non sono io, persona, così, il soggetto. Come vuole. Marisa, le dispiace non poter invitare la signora Luciana? Sì, diciamo che ognuno, comunque, secondo me, ha la libertà di festeggiarlo come meglio crede, anche io, piuttosto che magari... Però se fosse venuta, lei l'avrebbe presa a casa sua. Ma sì, cioè, noi ci è capitato quando avevamo la casa in campagna, purtroppo adesso non ci si può... Guardi, avrei due ragazzi che veramente... E una moglie che per una volta non avrebbe voglia di mettersi a cucinare. Se lei non ha nulla in contrario, noi ci accoderemmo. Sì, devo chiedere alla suocera, che questa... La suocera. Sì, facile. Vabbè, sorvoliamo su questa... Sta svicolando. Sì, sta svicolando, chiaramente. Sono parole tutti. Vabbè, Marisa, buon Natale a lei, buon Natale. Quell'uomo è un prodotto di un ambiente sottosviluppato. Non ha assolutamente niente che non va, io lo posso provare. Ma come? Ma certo che ha qualcosa che non va. È un negro, Randolph. E magari ruba da quando era ancora in fasce. Trovandosi in un ambiente adeguato e con un adeguato incoraggiamento, io scommetto che quell'uomo potrebbe dirigere la nostra compagnia altrettanto bene che il nostro Winthrop. Hai intenzione di scommettere veramente, Randolph? E suppongo che tu pensi anche che se Winthrop dovesse perdere il suo posto, si ridurrebbe a rapinare la gente per le strade. No, io non credo che la sola perdita del posto sarebbe sufficiente per il nostro Winthrop. Io ritengo che dovremmo caricare sulle sue fragili spalle qualche altra sventuretta. Se perdesse sia il lavoro che la casa, nonché la fidanzata, gli amici, e se cadesse in qualche modo in disgrazia e fosse arrestato. Ecco, Giuseppe Sansonno, qui è un altro caso in cui lo spirito del Natale, nel suo aspetto contraddittorio, abbiamo sentito due storie prima, una persona compiaciuta del suo miserrimo Natale, la sogliolina, il freddo, la solitudine, c'è quasi una fierezza nell'ostentare la micragna natalizia che... È altrettanto, secondo me, poi ognuno fa come vuole, ognuno si impicca la trave che preferisce, è altrettanto proprio quanto questa sorta di apertura, siamo una grande famiglia, vogliamo tutti, poi devo chiedere alla suocera se posso far venire la vecchia casa. La clausola. E qui invece di cosa stiamo parlando? Qui invece siamo in pieno Una poltrona per due di John Landis con Danny Croyd e Eddie Murphy qui. La tematica del povero e invece del broker, che Danny Croyd è lanciatissimo, Bip, Wasp, e il nero invece di Murphy, che finge di essere un reduce del Vietnam e chiede l'elemosina. Due magnati osservano queste due figure umane e cercano di invertirne la vita per provare che, appunto, per scommettere sulla definizione del milieu e del contesto sociale che determina le vite di ciascuno. E questo è il trionfo della concezione americana tipica degli anni Ottanta, anche del regalismo, che si poteva con un guizzo di borsa sovvertire la propria vita, magari proprio sotto Natale, e cambiarla e diventare... La grande illusione che bastasse poco, che con un gesto... Bastasse una dritta, bastasse un'intuizione, bastasse... È un po' accaduto qualcosa di simile poi con la grande idea della bolla di internet, che da un garage un ragazzo potesse mettere su un impero miliardario. È accaduto per qualcuno, per tanti altri invece non è stato nulla. Uno su un miliardo magari ci riesce, però c'è un miliardo che invece precipita nella miseria più nera sul marciapiede. Beh, vi rendete conto che se date soldi ai poveri non saranno più poveri, giusto? E se non sono più poveri, non dovrete più raccogliere soldi per loro. Se la mette così. E se non dovrete più raccogliere soldi per loro, vi troverete senza un lavoro. Oh, vi prego, signori, non chiedetemi di farvi perdere il lavoro, non alla vigilia di Natale. Oh, non lo faremmo mai, signor Scrooge. Beh, vi consiglio di dar questo ai poveri e di andare via. Dove va a finire? Questo è un classico, più volte rivisitato in cartoni animati, ultimamente anche in 3D l'anno passato. È il canto di Natale di Dickens, che racchiude in sé tutte le metafore, anche tutti i luoghi comuni che stiamo ripercorrendo questa mattina. Il Natale è luogo di grande polarizzazione, in cui i buoni sono buonissimi, in cui i cattivi sono cattivissimi, in cui alla fine gli sfigati e i felicemente baciati dalla fortuna e dalla vita si incontrano in un momento fantastico e magico. Ma accade sempre così. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sì, vuole che festa, certo, felice giubilanza, eccetera, eccetera. Oh, che peccato, poverini, si saranno fatti male. Il Grinch odia il Natale e i suoi festeggiamenti. Buona giornata. Ti piace? Inutile chiedersi perché, nessuno sa dare chiarimenti. Ehi, ragazzi, ecco un regalo per voi, correte con la sega in mano, mi raccomando, di corsa, via, correre, correre, correre, correre, correre, correre. Il Grinch! Che c'è? Per favore, non dirmi che i tuoi figliuoli sono andati proprio a Monte Briciolaio a provocare... Ecco, ci troviamo ancora una volta a commisurare un'antitesi. Il racconto di Natale di Dickens attraverso le sue varie reedizioni, in cui ci sono tutte le figure di questo presepe laico natalizio classico, l'impiegato, il povero impiegato, con il bambino zoppetto, con la malattia, che sta male, il cattivo, che è pieno di soldi ma vive un Natale miserrimo perché è avaro e l'avarizia gli ammazza la volontà di condividere la felicità comune, e questo spirito natalizio che entra, come proprio nei film di Disney, qui sono quella sorta di polverina luminosa che entra dappertutto, rende tutti buoni. E il Grinch. Il Grinch non ebbe un gran successo, questo mostriciattolo verde sembrava costruito della materia stessa del vomito, che odiava il Natale. Verde, peloso e viscido, che poi in America è un po' come Pinocchio, come fama, appunto, però anche lui vivrà il percorso di redenzione. Interessante la coincidenza invece nel canto di Natale di Scrooge con Paperone, due archetipi che coincidono. È come se il Natale fosse una sorta di punto di morte in Karl fa... Barks, che è un grande illustratore, ne fece uno fantastico di canto di Natale con Paperone. Uscì, mi sembra, il personaggio Paperone proprio con il canto di Natale di Karl Barks. Sì, ma l'umore era quello, l'archetipo era quello, si partiva da quella in pieno capitale, questa sorta di capitalismo che poi ogni tanto disvela dei lati bonari, umani, perché poi c'è la redenzione, lui è cattivissimo e perfido nel non concedere elemosina, però visitato nottetempo, e poi appunto è come se fosse la redenzione, tirato per i piedi da dei fantasmi orribili. Appunto la notte di Natale è come se fosse il punto di morte, uno rivede la propria esistenza e capisce tutto l'orrore, l'ignominia, e quindi nel giorno di Natale culmina il cambiamento. Beh, sai, coincide un po' con la festa di San Giovanni, che è il solstizio d'inverno, che è il momento di massima tenebra, e poi ricomincia a risalire, a risalire il sole, quindi c'è un momento di toccare il fondo delle tenebre per risalire, anche nella visione cristiana. Certo, la catarsi annuale che appunto invece si ripercorre ogni anno, si percuote tutti. Danila. Buongiorno, buongiorno. Io ho 42 anni e sento spesso il suo programma perché per andare a scuola accendo Radio 24. Ancora va a scuola, 42 anni? Come insegnante. Quindi le volevo fare i complimenti per il programma. Non volevo intervenire, ma poi quella ragazza di 30 anni mi ha dato, come dire, un motivo in più. Perché io sono invece per un Natale gioioso. Io penso ma che tutti lo siamo, guardi, forse sono stato frainteso. Non ho detto non bisogna passare il Natale dei cattivi, dicono ah, Natale. No, Natale gioioso, ma evitare gli appesantimenti che si fanno per gli altri, che non sentiamo profondamente. Guardi, anche i parenti. Le dico, l'unico dovere che noi abbiamo è cercare la gioia. E le dico come passiamo noi. Questo Natale. Nella vita ce l'abbiamo come dovere. Nella vita. E penso che il Natale sia proprio questo, cioè la festa della gioia e anche della rinascita, del darsi un'altra possibilità. Sì, sono belle altri. Parole queste, ma quando lei comincia a dover prendersi la suocera in casa che detesta, se per un anno lei dicesse stattene a casa vecchia infame, mi hai rovinato metà della mia vita. Ma questo non succede nella mia vita, perché no, dico in generale, non dico nella sua, ma sa quanti esempi. In generale anche il Natale può essere un momento per ricominciare, per cui perché non cogliere questa opportunità? Ma cioè di ridare un'altra chance di lessarci la vita per un altro anno. Infliggersi la suocera per... No, questo non sono d'accordo, guardi. No, perché non darci un'altra opportunità di ricominciare con gli altri? Perché non darcela tutti i giorni però? Tutti i giorni, non soltanto a Natale, il Natale è solo un inizio. Lo sa perché è un meccanismo un po' perverso che tenderei a smontare questa mattina, perché in Natale c'è questo spirito del volemose bene, si rivedono i parenti che ci hanno fregato i soldi, ci hanno fregato le mogli, ci hanno rovinato i patrimoni, o ci hanno sempre parlato dietro le spalle, o ci hanno invidiato, ci hanno avvelenato con la loro invidia. Siccome è Natale ci rivogliamo tutti bene e ridiamo un altro biglietto per il grande spettacolo di un anno, di poterci rovinare la vita per un altro anno. Non è che ci rivogliamo tutti bene, ma forse sarebbe il caso di provare a rimetterci in gioco. Sì, ma Io ho una visione diversa della vita, io mi rimetto in gioco sfondando, no? Riportando in barca tutti i cadaveri che mi hanno appesantito la vita, però ognuno è lecito che abbia le dico questo, poi la lascio. Le dico come passiamo noi il nostro Natale: abbiamo tutti quanti ancora dei bambini piccoli, per cui i regali sono solo per i bimbi. Vabbè, quella è ancora una grande gioia. Benissimo, non ci scambiamo più regali già da qualche anno, però sicuramente nel momento in cui, ecco, bisogna preparare tutte le leccornie, le cose buone, ecco, la nostra gioia si esprime anche in cucina e in maniera conviviale nelle serate del 24 e nel pranzo del 25. Ma quello è buona cosa, purché non ci sia, ecco, l'obbligo di sfrittellare e spadellare cominciando dalla mattina fino a sera con gli uomini che ruttano sul divano e non fanno nulla, non lo so, è un momento in cui dovrebbe abbassare il livello dello stress e far cose che veramente fa piacere fare. Poi ci sono quelle tavole imbandite, bisogna mangiare per forza sapendo che si starà male dopo. Franco, sentiamo Franco. Franco. Ricchi, buongiorno. Eccolo. Sì. Complimenti, sono in viva voce, non so se è un problema. Un po' sì, è un problema. Tolga il viva voce e metta. Bene. Fatto, tolto. Eccomi. Ecco. Allora, no, buongiorno. Io volevo legarmi invece al film del regalo di Natale. Io c'è una cosa che non sopporto, che mi dà noia, che si inizia a giocare a tombola a 50 centesimi a cartella, poi si fanno giocare i bambini tutto un tratto, si entra in un meccanismo di 2, 3, 5, 10 euro. Io l'altro giorno ero stato invitato ad una festa e abbiamo giocato, che si era partito a 50 centesimi, ma faranno giocare anche i bambini. Niente, con piatti da 40, 50 euro, dove poi a fine gioco ci si arriva a 12. Pur stando a Natale, pur stando, certo, uno va a casa un amico, è una cosa terribile. Cioè, lei mi invita, i bambini, sì, no, ma poi i bambini giocano, dice, ma giochiamo anche noi? No, bambini, trevatevi, si gioca a noi. Allora, quanto si fa? 50 centesimi, benissimo, perfetto. Allora, il piatto è 5 euro, per 2, per 3, per 6, se arriva a fare un piatto di 50, chiaramente chi perde odia quell'altro, dentro di sé c'è questo stimolo di... Allora, Franco, mi ascolti, è un'ottima occasione per dire una cosa. Quando ti invita un amico e dice, poi giochiamo a carte, è chiaro, non ci toglierà mai nessuno alla mente l'idea che ci ha chiamato, perché vuole fare una sorta di sottrazione dalle nostre tasche di quello che abbiamo per metterla nelle sue. Invitare un amico a giocare vuol dire ti voglio portare via i soldi, lasciamo perdere il divertimento e il gioco. È una maniera per ribilanciare le spese che si è fatte per Natale, cercando di riuscire a prenderlo dalle tasche degli amici. Non è una bella cosa, però a molti diverte. Samantha! Mami! Mamma! Silenzio! Ragazzi! Papà ci vuole dire qualche cosa! Beh, anche questo Natale se lo siamo levato dalle valle. Questa è la radicalizzazione di tutto quello che abbiamo detto attraverso una formula comprensibile a tutti, che in sé sintetizza comunque quello che si proverà alla fine delle feste di Natale: dire, beh, abbiamo fatto un pacco, ci siamo tolti questo impegno. Passato il Natale comincia il clima che ci si avvicina, si tolgono i giocattoli di Natale, entrano le mascherine di Carnevale, Martedì Grasso, comincia la Quaresima, già si pensa alle vacanze di Pasqua, ma quando sia Pasqua già bisogna aver prenotato la vacanza estiva. Non si esce dalla catena di montaggio. Quando si torna alla vacanza estiva comincia l'autunno, la scuola, e presto si ritorna a parlare nuovamente del Natale. Tu che farai per Natale, Giuseppe? Omaggeremo come ogni anno Ferreri, ingozzandosi una grande buffata di seppie crude, di polpi crudi alla barese, barbarico, questo omaggio barbarico che ci oppierà di cibo come ogni anno. Beh, mi sembra che comunque, rispetto a tutti i film natalizi che abbiamo sentito, che abbiamo ascoltato, che abbiamo ritoccato, è cambiata un po' anche la tradizione del film di Natale. Adesso il film di Natale, almeno in Italia, è il cinepanettone. O c'è ancora, diciamo, la tradizione, come l'anno scorso è stato mandato il film del racconto Natale in 3D, di un film natalizio anche per i ragazzi? Sì, appunto, le major americane sì, però appunto in Italia si propone sempre la trivialità di grande impatto del film di Natale. classico con De Sica. Quindi seminiamo inutilmente saggezza quando noi diciamo di dare un senso diverso al Natale. Io rimango del mio impegno, il 24 mattina, il giorno della vigilia, verrò qui, sarò in diretta soltanto io e Valerio Rocchetti, e aspetterò che mi diciate come in questa settimana siete riusciti a mettere a punto un meccanismo virtuoso ed intelligente per passare un bel Natale. A domani. Alors tous deux on est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.